appena tu vieni da me a mormorare mille parole che spiegar non saprò mai. E all'amore che fai pensare, a quell'amore che io sperai. E quando tu non parli più senza un perché, e poi mi stringi dolcemente e baci me, e all'amore che fai pensare, a quell'amore che io sognavo, a quell'amor che in silenzio aspettai. Oggi giuri che mi ami, ma lo so che già domani ti stancherai di stare con me. E quando tu un altro amor incontrerai, e come me in un sospiro la bacerai. E all'amore che penserò, ed io allora mi chiederò, se tu esistevi veramente oppure.